Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata che come sempre avrà anche la poco invidiabile classifica, no? Già rido perché oggi è al primo posto, in realtà avremo un caso virtuoso di come si può anche far risparmiare i soldi dei contribuenti, ma non voglio anticiparvi altro, quindi un caso di un presidente di regione, ex presidente di regione, che è riuscito veramente a risparmiare tantissimo nella sua vita. Comunque, purtroppo gli altri non sono così virtuosi, mettiamola così. Però parleremo anche in apertura di Europa, perché come scrive oggi su Sole 24 Ore Adriana Ceretelli, se Berlino gioca col fuoco e brucia l'Europa, è un commento sulla posizione tedesca. Beh, insomma, non è che stiano uscendo notizie esaltanti dal vertice Ecofin su questo fronte. Perché lo dico? Perché da un lato c'è una oggi, domani è ad Amsterdam il vertice Eurogruppo, paesi aderenti all'euro, e poi domani sarà Ecofin, quindi allargato ai ministri economico-finanziari di tutta l'Europa. Ma dopo le bordate che ha tirato Mario Draghi ieri, abbiamo mandato per l'area euro, non per la Germania, questo nonostante il tentativo di Schäuble di riappacificare le posizioni, Draghi evidentemente tanta voglia di riappacificarsi con il falco tedesco non ce l'ha. E devo dire, non dovrei dirlo io perché conoscete la mia posizione con la Germania, hanno veramente rotto i tedeschi. Oggi, e ha detto anche Draghi ieri ai fondi tedeschi, non incolpate sempre le BCE, i tassi bassi pesano sui rendimenti, ma dal quantitative easing ci sono anche guadagni sostanziali. E poi un capo della Banca Centrale Europea non italiano farebbe altre scelte, ma non sarebbero sufficienti. Obbediamo alle leggi, non ai politici, ne abbiamo parlato ieri in questo programma. In 4 anni la Banca Centrale Europea è stata l'unica a sostenere la crescita. Assolutamente vero, perché l'Europa, grazie alla posizione tedesca, olandese e degli stati satelliti, non ha mai avuto nessun tipo di posizione pro crescita. Oggi il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, che è un altro di quelli, ha detto: più ci asteniamo dai commenti meglio è, e fin qua tutto bene. E poi però è arrivato il vicepresidente della CDU e quindi del partito di maggioranza in Germania, Michael Fuchs, che ha detto: la politica del presidente del BCE Mario Draghi non è un buon rimedio per le sofferenze dell'euro, il cui non sta aiutando l'economia e non ha aiutato avere questi bassi tassi di interesse. Sono d'accordo con Draghi, stranamente, la Germania ci dica che cosa vuole fare, perché se ritiene che in questi 4 anni le politiche adottate hanno funzionato, viviamo in 2 mondi diversi. Allora, ci dica. B, è un po' strana questa critica, perché è come se tu criticassi il medico che ti ha dato l'antibiotico, ma il medico ti dà l'antibiotico e poi ti dice: mi raccomando, si riguardi, stia a casa, non prenda colpi di freddo, stia protetto. Da solo, diciamo, la medicina non basta se tu hai comportamenti del tutto incoerenti. Allora, noi siamo incoerenti perché abbiamo una BCE che, come ha fatto la Federal Reserve americana, stampa euro e dà liquidità, ma siccome non stiamo facendo investimenti a livello europeo, questi soldi non vanno verso gli investimenti, cioè non fanno ripartire l'economia. E poi però la critica la fai alla BCE, ma inizia a criticare il fatto che questi soldi non hanno una direzione perché non c'è un piano per la crescita a livello europeo. Sarebbe come se io me la prendessi col medico e con l'antibiotico se poi ho girato, diciamo, seminudo in mezzo alla neve nonostante l'antibiotico, che è quello che stiamo facendo dal punto di vista del macroeconomico. Quindi è assurdo dire: vedi che la BCE non funziona, cioè tu fai in modo che non funzioni il piano di maggiore liquidità e poi dai la colpa alla BCE che l'ha fatto. Veramente siamo al massimo. Comunque oggi dalla Germania arrivano altre dichiarazioni. Tra l'altro il commissario europeo ai servizi finanziari Jonathan Hill ha detto che si discuterà anche dei possibili rischi che hanno le banche che hanno troppi titoli di Stato, ma l'Eurogruppo ha già chiesto nuova austerità per la Grecia, nuove misure di austerità che scatteranno se Atene non rispetterà gli obiettivi fissati per il 2015 e il 2016. la discussione del debito è necessaria, dovremmo coinvolgere anche il Fondo Monetario. Faccio notare quello che diceva sulla Grecia l'UNICEF due giorni fa, povero un bambino su quattro, in dieci anni sono aumentati del 6%. Di questo parleremo subito in apertura, poi il Dieselgate tedesco, c'è questo ascoltatore che è... Parleremo anche del Dieselgate tedesco, perché oggi la Volkswagen ha annunciato di aver accantonato, cioè messo da parte per le future cause, soprattutto ai danni, 16 miliardi di euro, vuol dire una manovra finanziaria, proprio per far fronte alle conseguenze del Dieselgate, e ha chiuso l'anno, il 2015, i dati sono 2015, ha chiuso l'anno con una netta perdita da questo punto di vista. Questo era già più immaginabile, ma faccio notare che insomma, 16 miliardi di euro accantonati da questo punto di vista sono una piccola manovra finanziaria, 1 miliardo e 600 milioni di euro il rosso, la perdita registrata nel 2015. 349-238-6666 per sms e whatsapp, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, a chi mi scrive sulla pubblicità che abbiamo, non parlo, è 16 anni che conduco questo programma, non parlo della pubblicità che ho prima, durante e dopo il programma, sono due cose completamente indipendenti, quindi evitate qualunque commento, perché magari non è colpa di chi scrive, non sa come funziona la radio, ma sono io, non so la pubblicità che va in onda prima, e non lo sa nessuno in questa radio, prima, durante e dopo, per cui non c'è nessun riferimento, nulla di nulla. Una pubblicità la paga e la mette in onda, se ha dei criteri, dei caratteri anche etici, chiaramente ogni tanto blocchiamo pubblicità che sono inascoltabili, ma per altri motivi. Allora andiamo avanti, invece il petrolio in rafforzamento anche oggi a $44 al barile, più 2,5%, la borsa meno 0,12%, oggi poco mossa Milano, poi c'è l'eccezione di Mediobanca che guadagna il 4,80%. Devo dire che Milano è anche messa meglio di Parigi, meno 0,40%, Francoforte meno 0,70% e Londra meno 1,30%, il Dow Jones meno 0,30%. Da noi chi va male, Hux Net A Porter meno 2,70%, Fiat Chrysler meno 2,60% come Telecom Italia, Buzzi meno 2,30%, Saipem meno 2% come Luxottica. Allora, veniamo alle notizie italiane, pertanto di Europa parliamo tra un attimo. Saranno circa 7 milioni e mezzo di italiani che si muoveranno per il ponte del 25 aprile. L'89,5% resterà in Italia, giro d'affari 2 miliardi e 300 milioni, lo comunica Federalberghi. Per quello che riguarda i dati sull'Italia, a febbraio sono andate bene le vendite al dettaglio, sono aumentate col livello più forte da due anni a questa parte, più 2,7%. Lo so già, sono tutti dati spuri, parziali, quello che volete, però 2,7% rispetto all'anno prima, trainate dal settore alimentare, più 3,3%, e parliamo del valore in questo caso. Poi per gli ordinativi e le imprese, bene il dato di febbraio, più 3,8% rispetto all'anno prima, tirano computer e prodotti di elettronica, quindi elettronica da consumo e prodotti e computer. Il fatturato dell'industria, più 2,4%. E poi andiamo invece alla Popolare di Vicenza. Allora, oggi, so che sembrerà incredibile questa dichiarazione, ma il numero uno della Popolare di Vicenza, Francesco Iorio, in conferenza stampa ha detto che riuscire a portare a casa un aumento di capitale a 10 centesimi di euro per azione, cioè che vuol dire che i risparmiatori che l'hanno comprata a 62 euro le hanno, ma perdono il 99,8% di capitale, praticamente tutto. Però io lo dice, sarebbe comunque un ottimo risultato perché la banca verrebbe valutata 0,38 volte il patrimonio netto tangibile, più di istituti come Carige, Monte dei Paschi, Creval e vicino a una banca solita come Ubank. Quindi 0,1, cioè, nella vita dipende sempre come le vedi le cose. Se tu sei un risparmiatore che, a cui i vecchi vertici hanno fatto comprare con mille garanzie o hanno chiesto di comprare, se volevano un mutuo, le azioni a 62 euro, sei sul lastrico. Se sei l'attuale amministratore legato alla Popolo di Vicenza che dice, beh, ma sarebbe già un successo 10 centesimi, beh, ricorda un po' la barzelletta di quello che cade dal grattacielo e a metà gli chiedono come va e dice, fin qua tutto bene. Insomma, sì, certo, 0,10 va bene, è sempre meglio che 0, Iorio, siamo d'accordo. Abbiamo la quasi certezza che sarà quotata, aggiunge Francesco Iorio. Il nuovo CDA è pronto ad azione, alle azioni di responsabilità, speriamo, no? Perché sarebbe veramente incredibile che dopo quello che è successo non vi fossero azioni di responsabilità nei confronti dei vecchi vertici e degli attuali, di chi ancora permane nel Consiglio di Amministrazione della Popolare di Vicenza. Che schifo. Ancora, perché voglio dire, almeno la decenza di levarsi, di scappare, di andarsene proprio, e non di rientrare nel Consiglio dopo che hai distrutto non solo la banca, ma hai distrutto i risparmi dei vicentini e non solo. L'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin dovrebbe dimettersi dalla fondazione ROI di cui è ancora presidente. Lo ha detto sempre Iorio in conferenza stampa. I giornalisti gli hanno detto, ma lei gliel'ha chiesto? No, non lo vedo da tempo. Vabbè, esistono anche i telefoni, un SMS, Iorio, WhatsApp, no? Avrà il numero di Zonin da qualche parte. Scriva, caro Zonin, vuoi dimetterti dalla fondazione ROI? Perché la Popolare di Vicenza ha la maggioranza nel consiglio della fondazione ROI, incluso il presidente, perché la fondazione ha concentrato durante la presidenza di Zonin gran parte del patrimonio che fu lasciato dal marchese mecenate Giuseppe ROI proprio nelle azioni della Popolare di Vicenza, e quindi il patrimonio della fondazione, del mecenate, benefattore Giuseppe ROI è stato praticamente bruciato. E quello sta ancora a fare il presidente. E Iorio dice che un po' che non lo vede. Ma qualcuno riesce a parlare con Zonin? Dico, no? Avrà un ricavo, una segreteria telefonica, una segretaria, qualcosa, un piccione viaggiatore. Iorio, facci sapere, visto che comunque lei, quando è arrivato, non ha nessuna responsabilità, ci mancherebbe sulla gestione precedente. Ma quant'è che ha chiesto Iorio? 1,8 milioni come bonus d'ingresso? 1,8 milioni euro? Benissimo, speriamo che salvi la banca. Ma con 1,8 milioni forse si riesce anche a riuscire a raggiungere Zonin. E poi ha detto Iorio, investirò nell'aumento di capitale. Vabbè. Nel frattempo io vi faccio ascoltare questa dichiarazione del sindaco di Vicenza, Achille Vairati, che è intervenuto con Simone Spezia a Effetto Giorno, perché l'allarme sulle condizioni di povertà che stanno raggiungendo alcuni risparmiatori, che prima invece erano tipicamente della classe media, piccola media, grazie alla distruzione di tutto il loro patrimonio, poi il sindaco lo deve gestire proprio nella sua città. Sono 119.000 i soci della Popolo Vicenza. Sentiamo Vairati. Il problema che si sta ponendo è anche un problema sociale e di fiducia tradita. Perché lei ha giustamente detto 119.000 soci, pensi solo per la provincia di Vicenza, un 30-35% di quei 119.000 soci sono abitanti della provincia di Vicenza. Vuol dire che una famiglia ogni 5, una famiglia ogni 6 aveva le azioni della Banca Popolare. E se lei avesse chiesto, ma lei, signor Rossi, ha azioni? Quel signor Rossi avrebbe risposto, no, non ho azioni, ma come? A quelle della Banca Popolare. Ma la Banca Popolare è una specie di cassaforte, era intesa come qualcosa, un risparmio sicuro. Quindi fiducia tradita e risparmio praticamente azzerato, perché la stragrande maggioranza di quei 120.000 soci sono piccoli azionisti che avevano messo lì il loro TFR, i loro risparmi in attesa. Insomma, ora si trovano azzerati. Quindi alcune di queste famiglie, per l'azzeramento dei loro risparmi, non riescono più ad affrontare la vita normale di quella famiglia e cominciano iniziano a venire presso gli sportelli, ad esempio del mio comune, per chiedere aiuto. Purtroppo temo che sia solo l'inizio di un processo, di un impoverimento di un territorio, ed è ovviamente una cosa molto preoccupante. No, ma è fantastico, no? Perché già c'è la più grande crisi, che poi è un cambio strutturale, una rivoluzione, lo diciamo più volte, non è una vera crisi, dal 29. Già abbiamo un paese che si è beccato anni e anni di recessione. In una delle poche zone ancora ricche del paese siamo riusciti a distruggere, tra Vicenza e Montebelluna, sono riusciti a distruggere 10 miliardi di euro in tutto di risparmi veri. Il sindaco di Vicenza che ci dice, beh, iniziano a venire persone negli sportelli del comune perché hanno difficoltà. E la banca, che sarà pure contento Iorio, ma faccio notare che se l'aumento di capitale viene fatto a 10 centesimi, l'intera banca vale meno dei bonus, delle buone uscite, degli stipendi dati l'anno scorso. Ok? Iorio, eh? Cioè, lei sarà contento, anch'io sarei contento se si prende 1.800.000 euro subito per iniziare a lavorare. Più il resto, ma che non è, voglio dire, io capisco il suo sforzo, ma almeno dire contento, veniamo valutati bene. L'azione di responsabilità, scandaloso quello che è successo, le reticenze di chi, insomma, si capiva benissimo non volesse farla, poi avete convocato l'assemblea che c'era il Ponte Pasquale, il sabato, molti ci hanno scritto che non l'hanno seguita. Il sindaco dice anche una cosa giusta, anche se bisogna stare attenti, che per i vicentini avere azioni nella popolare di Vicenza non era fare un investimento azionario. Questo è colpa però anche del risparmiatore, cioè l'azione è un'azione, quella manco era quotata. Ma la dice lunga su come veniva percepita la banca. No, io non investo in azioni, e quelle della popolare di Vicenza erano considerate un deposito e basta. Dopodiché, no, andare ad accettare supinamente che tutto va bene così, madama la marchesa. Tra l'altro, continuate a scrivermi di chi è uscito con un diritto a riprendersi le azioni. E mi citate Renzo Rosso da un lato e dall'altro non mi ricordo più chi, adesso lo troverò. Beh, attenzione. Lì ci saranno anche delle cause. Da quello che capiamo noi, la giurisprudenza sul tema è molto chiara. Non puoi avere un diritto a riavere i soldi che hai investito completamente svincolato dal prezzo corrente delle azioni. Per cui, secondo me, lì auguri. Vabbè, lasciamo stare un attimo la popolare di Vicenza e andiamo su un tema che mi farà arrabbiare meno, che la posizione tedesca in questo vertice. Allora, se Berlino gioca col fuoco e brucia l'Europa, decisamente la Germania gioca con il fuoco quando prova a scaricare all'esterno, come fa in questi giorni, il peso delle sue tensioni e contraddizioni interne. Gioca col fuoco perché le divisioni intraeuropee sono sempre più solide, stabilità e ripresa economica sempre più fragili e incerte. La supplenza di Mario Draghi da solo non può fare miracoli, tantomeno quando le sue scelte sono criticate ad alta voce dal maggior azionista di riferimento, che è appunto la Germania. Benvenuta, bentornata ad Adriana Cerretelli, la mitica editorialista. Buonasera. Ho citato bene il tuo pezzo di oggi su Sole 24 Perfetto. Ore? E beh, l'ho letto, non è che l'ho imparato a memoria. Però Adriana, mi sembra che, diciamola tutta, in Germania sta iniziando la campagna elettorale, perché nel 2017 si vota. Come tu citavi, la stanno giocando tutto sul fronte esterno. Ieri Draghi, io raramente ho visto Draghi essere così piatto, come si dice in gergo, certo, e dire ai tedeschi adesso mi avete rotto. Oggi vedo delle rispostine tutte quante molto morbide su questo, perché il vicepresidente della CDU dice che Draghi sta sbagliando, che il QI non funziona, cioè loro non lo fanno funzionare perché non ci sono investimenti, poi la colpa di Draghi che l'ha fatto, traduzione mia. Certo. Però insomma, quale è da questo Eurogruppo addirittura chiede nuova austerità alla Grecia. Potremmo discutere della presenza, del rischio per le banche nell'avere titoli di Stato, cioè mandare un siluro all'Italia, mentre sono stati così morbidi e comprensivi sulla presenza nelle banche, a partire da Deutsche Bank, di prodotti derivati. Dove vuole arrivare la Germania? È tatticismo per motivi interni? Ma c'è, secondo me, un po' di tutto. C'è sicuramente la variabile elettorale, c'è sicuramente il fatto che la Merkel in questo momento non è agli apici della sua popolarità. È vero che la crisi dei rifugiati sembra in qualche modo migliorare, ma è altrettanto vero che Merkel ha ceduto a Erdogan, il presidente turco, quando ha preteso che fosse deferito davanti a un tribunale il comico che l'aveva preso in giro con una canzonetta abbastanza divertente che si può vedere su YouTube. Quindi diciamo che l'economia poi non brilla. Ci sono tutta una serie di problemi, compresa l'ascesa del partito Alternativa per la Germania, che è un partito che erode i consensi alla destra del partito della Merkel, e quindi sono tutte variabili interne che possono far comprendere il perché di questi attacchi. Al tempo stesso c'è di mezzo la posizione tradizionale della Germania, soprattutto quella del suo ministro delle finanze Schäuble, che è assolutamente contrario per qualsiasi motivo a mutualizzare qualsiasi cosa. E quindi di fronte a una BCE che fa una politica che è indotta, se si vuole, dagli errori che sono stati imposti all'Europa con un eccesso di austerità che ha depresso la crescita, ecco, quando Draghi quindi cerca di rimediare a degli errori tedeschi nella gestione della politica dell'Eurozona, della politica economica dell'Eurozona, ecco che la Germania insorge. Perché? Perché i tassi sono bassi, perché le banche naturalmente hanno dei rendimenti inferiori, e aggiungo io perché le grandi banche tipo la Deutsche Bank ha questo famoso fardello dei derivati che la rendono, diciamo, un colosso piuttosto opaco, ma al tempo stesso ci sono tutta quella costellazione di Landesbanken e Sparkasse, che sono il grosso, diciamo, del sistema, e che sfuggono alla vigilanza della Banca Centrale Europea, e che diciamo hanno non solo l'opacità e, se si vuole, come dire, dei bilanci che non si sa bene in che stato siano, ma in più si ritrovano con i tassi di interesse bassi e quindi hanno minori utili, minori rendimenti. Allora si teme che, se la situazione continua, queste banche possano, non si dice saltare, ma comunque avere comunque... Beh, insomma, sappiamo che anche le Sparkasse... bisogno di esatto. Sappiamo che le Sparkasse tedesche le hanno ben salvate pure loro quando si poteva ancora assolutamente, fare. Assolutamente, ai suoi tempi di sicuro. Quindi, insomma, di qui l'attacco a Draghi, no? Perché non fa una politica, diciamo, favorevole agli interessi in questo momento della Germania. Ma giustamente Draghi ieri ha risposto che la BCE e lui stesso sono al servizio dell'Eurozona, non degli interessi della Germania. Allora, e che quindi, dopo, due cose ancora rapidissime, Adriana. La prima, giustamente un ascoltatore fa notare, ma quanto si vota in Germania? Prima le elezioni regionali, adesso le politiche, ho capito, c'è sempre un buon motivo. Però l'altra cosa che gli ascoltatori fanno notare, ok, la Germania, abbiamo capito tutti, che persegue, al di là di tante dichiarazioni di superiore, solo ed esclusivamente i casi suoi. Non posso rifare le puntate già fatte, ma è l'unica che ha avuto un vantaggio in questo periodo, e si lamenta pure, ha salvato con 247 miliardi le sue banche messe malissimo quando si poteva fare, furba a farlo lì, ma non ci dia lezioni di furbi, diciamo. Possiamo prendere lezioni di furbizia dai tedeschi, e adesso è tutta attenta alla campagna elettorale. Ha fatto la cavolata la Merkel di aprire i migranti senza avere un piano. C'è un'intervista bellissima di Schröder di due giorni fa che dà ragione all'Italia, tra l'altro, su questo. Però quello che gli ascoltatori fanno notare, ok, la Germania, sappiamo come sono fatti, cioè più che la Germania, i tedeschi, i dirigenti, la classe politica tedesca, ma gli altri paesi, perché insomma la Francia è silente. L'Italia aveva tentato una battaglia, perché tutto questo peso alla Germania le viene anche dato perché nessuno parla, nessuno controreplica, mi sembra. Beh, la Francia non può certo replicare, perché se perde lo scudo tedesco il suo spread sale alle stelle, perché la sua situazione non è certamente una situazione esemplare dal punto di vista proprio della sua credibilità di fronte ai mercati. Quindi la Francia è in qualche modo ricattata o comunque non si permette di alzare la voce per questo motivo. L'Italia, direi che nel suo piccolo, sono qui alla riunione dell'Eurogruppo, cerca di alzare la voce, particolarmente oggi è in discussione la questione dei titoli sovrani, altra cosa voluta dai tedeschi. Un siluro verso le banche italiane. Esatto. Oddio, è un siluro che bisogna poi vedere, perché dipenderà molto da come finirà la partita. Molti mi dicono che la partita finirà 0-0, perché poi sarà il comitato di Basilea a dover decidere, e non è detto che nel comitato di Basilea si trovi un accordo su questa questione, anche perché potrebbe seriamente destabilizzare i mercati obbligazionari, in particolare quelli di titoli sovrani, che sono essenziali per tutti i paesi, in particolare per esempio per il Giappone, che ha il 140% del PIL di debito, quindi sembra improbabile che alla fine si arriverà a una decisione perlomeno a breve. Resta però che lo stesso fatto che si sollevi il problema e se ne parli può creare nervosismi nei mercati e quindi può creare dei problemi seri. Si sa che la Spagna è sicuramente dalla nostra parte per quello che riguarda i titoli sovrani. La Francia pure nella sostanza, ma non nella forma, perché preferisce, diciamo, come dicevo prima, non alzare la voce perché ha bisogno della protezione tedesca per continuare ad avere degli spread così bassi. E quindi, dopodiché i nordici naturalmente sono dalla parte della Germania, perché qui siamo in Olanda, presidente di turno, ma l'Olanda è tradizionalmente su una posizione filo-tedesca dal punto di vista della stabilità e dal punto di vista anche di una certa, come dire, diffidenza verso i paesi del sud, qualunque essi siano, e l'Italia, diciamo, ai loro occhi non è mai stata tra quelli prediletti dal punto di vista della fiducia. E quindi ci si trova in questa situazione in cui, se si vuole, la Germania in un qualche modo è il paese più potente e quindi è quello che detta legge. Gli altri, per una ragione o per la, e ha dalla sua un certo numero di alleati nordici. Dall'altra parte però gli altri, per una ragione o per l'altra, non riescono a fare barriera. Però devo dire una cosa, sulla storia dei titoli sovrani oggi il commissario europeo ai mercati finanziari, che è questo Jonathan Hill, un inglese, ha molto molto, diciamo, frenato, e questo è un buon segno, perché vuol dire che gli inglesi, che a loro volta hanno un sacco di titoli sovrani nei bilanci delle banche, hanno intenzione di non adesso la dico nel ringraziate e salutate, che come battuta già un buon motivo per fare in modo che la Gran Bretagna resti in Europa è per contrastare altrimenti lo strapotere tedesco. E qui torniamo a livelli, cioè, perché è Hill poi parla, alcuni mi chiedono cos'è questa cosa di titoli di Stato. Beh, i tedeschi stanno creando una polpetta avvelenata per le banche italiane e spagnole, vorrebbero che i titoli di Stato, che in questo momento sono titoli garantiti, quindi la banca non deve, diciamo, accantonare soldi se compra titoli di Stato, perché si ritiene che sia la cosa più garantita al mondo, se salta lo Stato salta anche la banca, vorrebbero invece che avessero un tasso di rischio. La spiego male, ma la spiego per tutti. Come quando la banca fa un investimento, questo vorrebbe dire far peggiorare il bilancio, il patrimonio di tutte le banche che hanno titoli di Stato, a partire da quelle italiane, ok? Questo per rendere meno convenienti i titoli di Stato. Io ti dico, è veramente un suicidio, o meglio un omicidio, perché poi in tutta questa operazione chi ne esce sempre bene sono i tedeschi. Ma detto ciò, occorre che si facciano sentire anche gli altri paesi. Su questo, nel ringraziare Adriana Certeri, vorrei ascoltare il mitico Heron Dijsselbloem, che è olandese e che fu uno di quelli falchetti prima di diventare presidente dell'Eurogruppo. Ha detto: la discussione sul debito è necessaria per il fondo, è necessaria sulla Grecia, e occorre anche che il Fondo Monetario Internazionale ritorni a bordo, perché si torna a parlare di nuove misure di austerity per la Grecia. Del resto sta arrivando l'estate, no? E come tutte le stati, parleremo della Grecia, poi arriveranno gli sbarchi. We believe that substantial progress has been made. Pensiamo che si siano fatti progressi notevoli. Sono diminuite le questioni ancora aperte, mentre su altri punti fondamentali, come la riforma delle pensioni, siamo vicini ad un accordo. Su altri fronti c'è ancora molto da fare per arrivare ad una conclusione, ma siamo vicini. Crediamo che il pacchetto di norme debba includere un pacchetto di contingenza con ulteriori misure che scatteranno solo se necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il meccanismo di contingenza deve essere credibile, ciò richiede ulteriore lavoro. Su come funzionerà, quali misure conterrà e come scatteranno, sono felice di dirvi che abbiamo l'impegno del ministro greco per lavorare su questo in modo costruttivo. Se il pacchetto di contingenza sarà approvato, allora potremo tenere un altro Eurogruppo il prossimo giovedì. Circa la sostenibilità del debito, sono state fatte delle promesse confermate nell'accordo della scorsa estate dal governo greco. Se necessario, siamo pronti a considerare altre misure per garantire la sostenibilità del debito. Non consideriamo la possibilità di un haircut del debito. Ogni proposta dovrà essere definita all'interno dell'accordo dell'estate scorsa. Focus Economia. Tre che più. la classifica della settimana. Allora, classifica che, come dicevo, si chiuderà con un esempio virtuoso di chi, da ex presidente di una regione importantissima, è riuscito a non spendere nulla. Ma andiamo con ordine, partiamo dall'Italia neoborbonica, che non è un movimento politico, c'è anche quello, ma è, insomma, l'abbiamo titolato i neoborboni che arrivano in Lombardia e in Trentino. Sentite queste due notizie. Allora, che succede? Io mi chiedo, questo paese, vabbè. Allora, a Crema un'anziana cade per strada, cade, finisce in ospedale. Era scesa dal marciapiede perché temeva che il tacco le si incastrasse nella grata. Problema che molte donne che portano il tacco hanno con le grate. Questa signora ha 86 anni, a maggior ragione aveva un timore ulteriore. Quindi scende, cade per strada, si frattura ma sopra il naso e l'omero, cadendo proprio da quel marciapiede. Ma ciò nonostante, mentre è in ospedale, le arriva una multa dei vigili, non sto scherzando, con una contravvenzione da pagare da 17,50 euro, perché in quanto pedone, articolo 190 del codice della strada, non circolava sul marciapiede. Il figlio è un avvocato, prima ha pagato la multa, poi ha detto ma come cavolo si fa a multare una signora di 86 anni, è caduta tra l'altro in una zona lontana dal traffico. A quel punto il comandante dei vigili, Giuliano Semeraro, si è scusato, ha detto probabilmente c'è stata da parte dei miei uomini un'errata sopravvalutazione delle circostanze. Ragazzi, è caduta un'anziana da un marciapiede, no, la multi pure, è un calcio mentre era per terra, no, è così a questo punto. Ma i neoborboni arrivano anche a Trento. Li chiamo borboni nel senso che sono delle pratiche, diciamo, da stato bizantino più che borbonico. Allora, a Trento un commerciante, con tutti i problemi che ha questo paese di evasione, di controlli, delle medie, sicurezza alimentare, abbiamo fatto decine di puntate, a Trento un commerciante espone nella sua bancarella di frutta e verdura dei fagiolini, dice che è Barisoni drogato oggi, no, non così tanto, dei fagiolini con la scritta siciliani e non italiani. Arriva l'agenzia di controllo del Ministero dell'Agricoltura, gli dà 770 euro di multa. Motivo? Attento bene. Il verduraio Gianni Endrizzi, virgolettato, ometteva l'indicazione del paese di origine, Italia, sul cartello apposto accanto ad una partita di fagiolini freschi per la vendita al dettaglio, ove veniva riportata la dicitura siciliani. Ora, di fronte a questo, il povero verduraio fa notare che indicare la regione di provenienza è indicare soprattutto la Sicilia, non è che proprio io posso capire il Baden-Württemberg, cavolo, magari è ignorante, ma la Sicilia tendenzialmente sappiamo che è in Italia, e come se non lo sappiamo in questo appuntamento? Niente, dice, scusatemi, io ho dato un'indicazione ulteriore, non mi limito a mettere Italia, spiego anche che vengono dalla Sicilia, proprio per dare maggiore informazione al consumatore. No, niente da fare. L'agenzia delle... Beh, noi siamo un paese duro, serio. L'agenzia di controllo del Ministero dell'Agricoltura ha detto no, non è così, perché deve essere presa in considerazione l'ipotesi che ci sia qualcuno che non sappia dove si trovi la Sicilia. Io vorrei aprire un dibattito con il ministro Martina e il suo dipartimento, perché potremmo anche iniziare a cercare di capire, ma se uno non sa dov'è la Sicilia, siamo così sicuri che sappia dov'è l'Italia? E scrivere mondo a questo punto non avrebbe più senso? Mondo, globo? Globo terrestre? No? Sistema solare? Vai sicuro su quello. Prossimo alla luna? Ma ragazzi, ma 770 euro di multa. E dice il commerciante, con quello che capita nel mondo del commercio, le truffe, le falsificazioni, a me perché ho scritto Sicilia. Voglio dire, no, devo star zitto perché sennò sono... Ministro Martina, ma levate gli 770 euro di multa, perché ma la risposta che mi manda nei pazzi, cioè lui deve prendere in considerazione l'ipotesi che qualcuno non possa non sapere dove si trovi la Sicilia, e a sto punto è uno da rinchiudere, cioè lo devi segnalare alle autorità sanitarie, non dagli fagiolini con tutto ciò che comporta mangiare i fagiolini. Oh, andiamo, no, adesso qua andiamo seri, perché andiamo a chi invece parla proprio di atteggiamento borbonico, e non lo facciamo noi, lo fa, questa è una vicenda ancora più seria, la Fondazione Villa Piccolo di Palermo. Sentite questa, parlano di demenziale. Il consiglio di amministrazione si è dimesso, il presidente Giuseppe Benedetto si è dimesso sabato scorso, e scrive nel documento molto duro: la demenziale inettitudine della più famigerata burocrazia regionale, unita all'incapacità e al disinteresse di una classe politica a porre argine a tanta nefasta invadenza, hanno compiuto il misfatto. Che cosa è successo? Questo piccolo gioiellino che si chiama Villa Piccolo aspettava 180.000 euro dalla regione Sicilia per una mostra organizzata da aprile a novembre al Teatro Antico di Taormina. I soldi non gli sono stati dati e quindi la fondazione ha chiuso i battenti, ha chiuso Villa Piccolo, ha chiuso tutto, si è dimesso il CDA, uno schifo. Ma sapete perché? Uno dice: guarda, c'è un problema nelle casse regionali, per una differenza di 50 centesimi nei conteggi, no? L'accordo fra la regione e la fondazione prevedeva che quest'ultima ricevesse una quota dei biglietti d'ingresso. Da quando la mostra è finita nulla è arrivato, perché c'è una differenza di 50 centesimi nei conteggi. La regione si giustifica dicendo: no, in realtà mancava, aspettavamo il certificato antimafia, il documento di regolarità contributiva. Intanto quello che è certo è che i soldi non li avete dati, la fondazione ha chiuso, Villa Piccola è chiusa e il CDA e il presidente si sono dimessi. Complimenti anche a voi per 50 centesimi. Andiamo col traffico e poi chiudiamo in bellezza. Focus Economia. Allora, nel frattempo, al secondo posto, visto che parlavamo di Sicilia, faccio notare che mentre mancano i soldi per pagare cose già previste, ci sono in regione Sicilia 67 dirigenti, 27 al Dipartimento Beni Culturali, 11 all'Agricoltura, 8, che non fanno nulla. Nel senso che funziona così, attenzione bene, praticamente hanno al momento un incarico di studio, non un incarico operativo, quindi non hanno un ufficio, ma conducono ricerche per conto della regione. Quella affidata a lui, c'è un caso particolare, addirittura c'è un dirigente che è pagato dalla regione per guardare i cantieri. Avete presente questi anziani che a me fanno molta tenerezza, che ogni tanto vedi che guardano i cantieri, commentano: hai visto la gru? Guarda. Ecco, praticamente questo è pagato, è un genio, è un dirigente, è pagato per guardare i cantieri, ma non è colpa sua, è colpa di chi non sa cosa fa se ne questi dirigenti, non sa neanche eventualmente licenziarli. Praticamente lui, non avendo un ufficio da dirigere, è un dirigente senza una cosa da dirigere, che cos'è, boh, gli è stato dato come oggetto l'attività di coordinamento inerente alla problematica sulla tutela dei centri storici. Il suo ufficio si trova alla sovrintendenza di Palermo, lì ogni mattina, lo racconta lui, si chiama Conigliaro, Salvatore Conigliaro, timbra il badge e aspetta, si rimane in attesa dei lavori, e quando ne arriva uno, immagina questa giornata, timbra, sta lì. Quando ne arriva uno, io vado direttamente sul posto in cantiere a verificare, a guardare, a osservare l'intervento. Se poi ci sono delle constatazioni da fare, faccio un verbale e progetto una variante. Noi di Beni Culturali sappiamo che questo non è un incarico, ma sostanzialmente, non avendo un ufficio, dobbiamo aspettare ogni giorno per avere un incarico. E si sono 67 dirigenti messi così. Ora, io so che il tempo a mia disposizione è finito e che per il primo posto dovrò aspettare le 18.05, ma vi invito ad ascoltare bene, perché, come anticipavo, c'è un caso virtuoso all'interno di un processo, ma il caso virtuoso è di chi riesce, io penso che nemmeno Gandhi sia arrivato a tanto, ma chi riesce, diciamo, a non spendere. La domanda è questa: voi riuscireste a non spendere un euro per 8 anni? Un euro? Anzi, 10 anni? Dal 2002-2012, cioè dal vostro conto corrente non esce un euro. Se c'è qualcuno che ci è riuscito, ci scriva. Noi abbiamo un caso vero e reale che vi presenteremo dopo il GR24 e prima di Borsa e Volkswagen. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. Focus Economia. la classifica della settimana. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, al primo posto, dicevo. Allora, qui il caso è un caso virtuoso, a mio avviso. Quindi abbiamo voluto premiare, in realtà non un caso di spreco al primo posto, ma un caso di risparmio da parte di un ex presidente di regione. Il tema in realtà entra ed è emerso durante un processo, è il processo dove il PM Laura Pedio ha chiesto per Formigoni, ex presidente del ex governatore della regione Lombardia, ma anche altre 10 persone, tra cui l'ex direttore regionale della sanità lombarda Carlo Lucchina, che gestiva una spesa sanitaria che in regione vale 17 miliardi di euro, e altre appunto 9 persone, tra cui il faccendiere Pierangelo D'Accò. L'accusa è di avere che Formigoni, diciamo, desse ordini criminali, lo dice lo stesso PM Laura Pedio nella requisitoria, che il direttore generale della sanità lombardo obbedisse, e che ci fosse, diciamo, un comitato che gestiva in questo modo la sanità lombarda. Addirittura D'Accò viene accusato di essere il collettore delle tangenti per il Celeste, che è il soprannome di Formigoni, il quale avrebbe ricevuto Formigoni circa 8 milioni di euro in benefit di lusso in cambio di stanziamenti regionali a favore della Fondazione Maugeri del San Raffaele. Faccio notare che la sanità lombarda è una sanità di eccellenza, ma nello specifico la Fondazione Maugeri ha chiuso il 2013 con un rosso di 17 milioni di euro. Di San Raffaele ne abbiamo parlato molte volte, non è solo per questo, ma ha imbarcato oltre un miliardo di rosso, perdite come Fondazione San Raffaele. E ancora fa notare nella requisitoria il PM che l'allora assessore alla sanità Alessandro Cè, che poi si dimise in contrasto, in rottura con gli adoreveci, nel 2005 decise di eliminare le 3 funzioni non tariffabili facendo risparmiare 134 milioni. Formigoni intervenne su di lui a gamba tesa, le 3 funzioni vennero comunque eliminate, ma la Maugeri e San Raffaele con 2 delibere ad hoc ottennero nel 2009 rispettivamente 26 milioni la Maugeri e la Fondazione Maugeri e 58 milioni di San Raffaele attraverso incrementi su altre funzioni. Secondo l'accusa, le delibere venivano costruite ad arte per dare agli enti, amici del presidente Formigoni, le somme che chiedevano in un crescendo continuo senza alcuna verifica dei costi, e come disse Cè prima di dimettersi, era tutto un baluginare di numeri. Ora, noi non ci vogliamo, ci mancherebbe sostituire, Formigoni ha detto che sono tutte accuse campate in aria, che le smantellerà e smonterà pezzo per pezzo in fase di dibattimento in tribunale, e non abbiamo motivo per non credere, per cui poi ci sarà il processo, questa è la richiesta del PM. Ma non è per questo che ne parliamo perché durante la requisitoria il PM Laura Pedio fa anche notare una cosa, e qui siamo veramente a un caso modello per tutti noi. Dal conto bancario di Formigoni per 10 anni, dal 2002 al 2012, non esce un euro. Veniva ogni mese accreditato il suo stipendio e lì restava intonso, dal 2002 al 2012. Ora, voi vi rendete conto che, nonostante poi noi tutti abbiamo visto Formigoni andare in vacanze esotiche, lo yacht, c'è tutto lo yacht di mezzo in questa vicenda, non voglio raccontare la vicenda, le cene, i vini costosi, i vestiti, però qui siamo di fronte a un caso, diciamo, altro che di atteggiamento francescano, pauperistico. Qui siamo di fronte proprio all'elogio della parsimonia, dello spogliarsi di ogni... Oddio, tanto spogliato non era, ma insomma, dello spogliarsi di ogni avere, di ogni consumo, del vivere di aria. È vero che ci sono gli, come si chiamano, aristi, i respiriani? Adesso ho imparato anch'io alcune cose. Quelli che vivono di aria. Formigoni deve essere un respiriano ante litteram, perché non spende un euro dal 2002 al 2012, il gran risparmiatore. Noi siamo un programma che si occupa di risparmi, quindi elogio, grande elogio per chi almeno, nonostante le accuse, dal 2002 al 2012 non tocca un euro del suo conto corrente. È chiaro che questa cosa diciamo non passa al PM e lo accusa. Lui dice di aver speso i soldi avuti in eredità dalla mamma. Mamma, allora io dico sì, va bene, ma tutti in contanti te li ha dati tua mamma, perché sennò ci fu stato un deposito in banca, doveva uscire qualcosa dalla banca. Quindi questa è la risposta. Guardate che io ho speso i soldi che mi ha dato in eredità mia mamma, perché nemmeno lui riesce a sostenere che dal 2002 al 2012 non tocca un euro del suo conto corrente. Ma bravo, vorremmo tutti i presidenti di regioni così parsimoniosi. Ma veramente, non sto scherzando, l'abbiamo letta 4 volte questa notizia. Un euro non esce dal 2002 al 2012. Il conto bancario dell'allora presidente della Regione Lombardia è silente. L'unica cosa, evidentemente, silente. Un applauso per Formigoni. È sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. È sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E poi dicono che i politici spendono. Non è vero, si può anche fare 10 anni senza utilizzare il conto corrente. Alessandro Sorri, cofondatore di Proteo, buonasera. Buonasera. Lei quanti anni ha? Io 29. 29. È mai riuscito a fare degli anni senza toccare il conto corrente? No, adesso vorrei, perché alcuni ascoltatori ci chiedono, ci scrivono che ci sono altri casi. Però, prego. Se Formigoni apre una scuola ci vado volentieri, perché è molto molto bravo. Invece lei che cosa ha aperto? Perché è il momento, diciamo, di tirarsi su col morale, al di là delle stare a Lager, come cantavano Iannacci e Fo, ma di tirarsi su col morale per chi, lo ricordo, chi si è messo in ascolto, ospitiamo sempre chi in questi anni di crisi si è rimboccato le maniche e ha lanciato un'attività di impresa. Voi cosa avete fondato in realtà? Io insieme ai miei due soci, Nicola e Federico, abbiamo fondato una società che si chiama Proteo e produciamo sistemi di fabbricazione digitale nel settore sanitario. In particolare offriamo un sistema di scansione a basso costo per il settore ortopedico. Cioè, cosa fate? Protesi in tutori, diciamo, in 3D, ho capito bene? Esatto, facciamo protesi tutori, diciamo tutori ortopedici in 3D, ma soprattutto offriamo la possibilità ai tecnici ortopedici di progettarle in conto proprio con il nostro aiuto. Senta, chi vi ha dato i soldi? Allora, i soldi ci sono stati dati parzialmente tramite la vittoria di un premio con la provincia di Siena di 26.000 euro e parzialmente con fondi propri, con nostri fondi. Quindi inizialmente 900 euro, capito bene? No, 26.000 euro. 26.000 euro. 26.000 euro. Ok, dalla provincia di Siena. Quindi adesso, a parte le battute, poi casi virtuosi anche del ruolo degli enti locali, delle fondazioni, ne abbiamo portati in questi anni più di uno e sono contento che vi siano arrivati dalla provincia di Siena. E poi avete partecipato al PLUST, ho capito bene? Esatto, poi abbiamo partecipato al PLUST e anche lì abbiamo ricevuto un premio di 2.000 euro. Ok, poi avete vinto anche un premio alle Startup Awards allo SMAU di Berlino? Sì, esatto, e quello ci ha permesso di avere molta visibilità anche a livello europeo. Quindi voi praticamente, cioè il tecnico ortopedico cosa fa? Acquisisce i dati, poi col vostro software realizza, cioè, il tutore? Allora, il tecnico ortopedico con un iPad ed un sensore di profondità tramite la nostra app che è scaricabile sull'Apple Store, si chiama Proteo Scan, realizza la scansione del paziente e invia il file a noi. In automatico realizziamo con le indicazioni che ci fornisce il tecnico ortopedico il tutore su misura per la persona, per il paziente. Ma e quindi provvediamo a stamparlo. E provate a stamparlo. I costi, ma soprattutto i ricavi, perché voi alle banche non avete chiesto nulla? No, noi attualmente alle banche non abbiamo chiesto nulla perché abbiamo investito i nostri soldi e per ora proseguiamo su questa strada. E come li farete i soldi? Cioè, avete già venduto? Prego. Noi abbiamo venduto alcuni pacchetti qui in Italia e un software l'abbiamo venduto anche in Costa Rica, un app, e noi contiamo di eventualmente fare soldi tramite la progettazione di questi tutori, quindi vendendo ai tecnici ortopedici la possibilità di realizzare questi tutori. Senta, ma lei e i suoi soci avete tutti 30 anni o giù di lì, 29-30? Esatto, siamo tutti coetanei. Ecco, e che formazione avete avuto? Allora, abbiamo tutte e tre formazione tecnica, in particolare Nicola e Federico sono laureati presso la Facoltà di Ingegneria Civile di Firenze, mentre io sono geometra. Da questo punto di vista, insomma, visto che spesso raccontiamo abbiamo fatto anche un appello ai genitori dei ragazzi adesso di non deprimere troppo i vostri figli dicendo che il mondo è finito, che tutto è finito, cioè, il mondo va avanti, è difficile, più difficile che negli anni 90, ci mancherebbe, ma non deprimete i vostri figli per i fallimenti vostri o per l'incapacità vostra di cambiare testa, così rispondo anche a un'ascoltatrice che mi ha chiesto: ma cosa vuol dire che non siamo in una crisi ma in un cambio strutturale? Questo vuol dire che non è una crisi ma è una rivoluzione dal punto di vista economico, un cambio strutturale di paradigma, come dicono quelli che hanno studiato. Vorrei sapere da lei che cosa vi ha dato la forza per lanciarvi in un progetto. Ma la forza innanzitutto risiede nell'entusiasmo che abbiamo di fare sempre nuove sperimentazioni, nuove cose. Sostanzialmente ci stava un po' stretta la definizione di bamboccioni e quindi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo deciso di intraprendere questa strada. Beh, bocca al lupo a lei e ai suoi due soci. Quando è che andate a break even? Però una cifra economica me la deve dare, cioè pareggio. Il pareggio contiamo di farlo dal prossimo anno, dal 2017, e da lì produrre utili per l'azienda. Bene, bocca al lupo veramente, ma i soldi, mi chiedono gli ascoltatori, forse ancora memory, diciamo, della parsimonia dei formigoni, ma i soldi ve li ha dati la famiglia, i soldi capitali dei genitori? No, molti sono proprio fondi nostri, perché comunque abbiamo sempre sia studiato che lavorato e pertanto abbiamo messo da parte un po' di soldi e abbiamo investito qui. Oh, bene, no, dopo la classifica anch'io ho bisogno di un po' di Prozac radiofonico. Grazie a lei, in bocca al lupo, a lei e ai suoi due soci che sono appunto Nicola Gardini e Federico Papi, oltre a lei Alessandro Sorri, e la società si chiama Proteo. È sempre allegri bisogna stare, e il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. È sempre allegri bisogna stare, e il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, il sogno di oggi è facile, perché vorremmo un paese in cui si va a controllare cosa fanno per esempio i commercianti cinesi quando fanno concorrenza sleale e non si multa un fruttivendolo a Trento perché ha scritto Sicilia invece che Italia sui fagiolini, e soprattutto anche, diciamo, una giustificazione sull'andamento della tua vita privata. Mi riferisco a Formigoni, che non citi sempre la mamma e l'eredità della mamma. È facile oggi il sogno. A chi mi dice che cosa vuol dire cambio strutturale e crisi? Adesso non possiamo fare la puntata, ma stiamo organizzando, se ci riusciamo, un ciclo di puntate proprio per capire che cos'è crisi, che è una cosa ben specifica, e che cos'è invece rivoluzione, cambio strutturale di paradigma, e quindi fine di un mondo e inizio di un altro mondo di cui non è che tutte le mappe e le bussole abbiamo a disposizione. Però pensare a quello che sta capitando da ormai 8 anni solo come una crisi, l'abbiamo detto più volte, è assolutamente fuorviante e limitante. Poi c'è anche la crisi, la parte congiunturale del giorno per giorno. Borsa, la commento io, oggi poco mossa, meno 0,25% Milano, Parigi meno 0,29%, Francoforte meno 0,60%, Londra meno 1,1%, bene, Mediobanca più 4,30%, Poste più 1,60%, Banco Popolare più 1,40%, come UbiBanca, A2A più 1,20, male Telecom meno 3%. Mi giungono notizie, ma non le vedo confermate dalle agenzie, di un interessamento della Vestager, però del commissario europeo. E Hughes Net a Porté meno 2,60, Fiat Chrysler meno 2,40, Buzzi Unice meno 1,80 come Luxottica, Moncler meno 1,60 come Saipem, l'1,5 europea de Ferrari e il Monte dei Paschi, l'1,20 Campari, Intesa San Paolo e Terna. Euro su dollaro a quota 1,12. Mi chiede un ascoltatore: perché non parlate più del Dieselgate? Barisoni, quanti soldi hai preso la Volkswagen? Come no, guarda, i tedeschi sono qua che non vedono l'ora di pagarmi. E infatti l'accontentiamo. Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Al di là dei soldi che ho preso io dalla Volkswagen, insomma, i soldi che la Volkswagen ha perso dal Dieselgate iniziano a vedersi. Praticamente 1 miliardo e 600 milioni di euro di perdita nel 2015 e accantonati 16 miliardi per lo scandalo Dieselgate, vuol dire per possibili cause, così la capisco io, Andrea. Sì, ci sono una serie di cose, possibili cause, il costo di tutte le riparazioni di tutti i modelli diesel, lo ricordiamo, sono 11 milioni di veicoli che andranno in qualche modo riparati. In particolare costerà tanto la riparazione o il riacquisto di quelli americani, che sono solo 500.000, ma sappiamo le autorità americane sono particolarmente aggressive e tenaci nei confronti di Volkswagen. È stato annunciato ieri un accordo di massima di cui ci sono pochi dettagli, ma in sostanza appunto Volkswagen di fatto si offrirà di riacquistare queste auto e di compensare in qualche modo anche monetariamente chi le ha comprate, proprio per evitare di essere cacciata fuori completamente dal mercato americano. Quindi è un investimento che per loro vale la pena di fare. Il problema è che adesso giustamente anche qualcuno qua in Europa comincia a dire: ma perché agli americani che hanno comprato una Passat date, supponiamo, 3.000 euro, non si sa quanto ancora esattamente, e a noi niente? Quindi il rischio di altre cause c'è. Quindi l'accantonamento di oggi è colossale, ma quasi sicuramente non esaurisce la fattura finale, che potrebbe ripercuotersi anche sui conti del 2016. Allora, un'ultima domanda in pochissimi secondi: ma che fine hanno fatto i test italiani? Perché vedo che altri paesi, in Germania ma non solo, forse anche la Francia, li stanno facendo i test a tutti i modelli diesel. Noi? Dunque, la situazione è curiosa. Oggi i tedeschi hanno annunciato i risultati di 56 auto testate. Noi, dicono a Roma, abbiamo voluto testarne 1.000 con la collaborazione del CNR, con un procedimento per il quale in legge finanziaria sono stati stanziati 5 milioni di euro. È un procedimento ovviamente più lungo, perché un conto è testare 50 veicoli, un conto è testarne 1.000, quindi non si capisce ancora bene quando verrà completato, però diciamo che i test tedeschi e quelli inglesi annunciati ieri danno gli stessi risultati, cioè tutti i motori diesel in condizioni di guida normale emettono ossidi di azoto molto più che nei test. Allora, grazie intanto a Andrea Malan, buon fine settimana anche a te. A chi mi dice: quindi non dobbiamo preoccuparci, perché essendo una rivoluzione strutturale, no, dobbiamo preoccuparci se vuole di più, nel senso che le crisi iniziano e finiscono, le rivoluzioni, diciamo, non si torna mai indietro da una rivoluzione, per cui poi preoccuparsi non è il termine esatto, a mio avviso è prendere atto, ripeto, ma vorrei dedicare uno spazio, un appuntamento apposito al tema un po' non solo del giorno per giorno della congiuntura, ma di dove stiamo andando come modelli. Dobbiamo capire che non si tornerà mai più indietro ai livelli precedenti. Nel ringraziare Andrea Malan, ringrazio come sempre anche Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione e nell'augurare un buon fine settimana a tutti voi, soprattutto a chi dovrà passare lavorando anche per in vista del ponte, ricordiamoci anche di Prince. Voilà, buon fine settimana. Radio 24, la passione si sente.